Sono Blio, Boyz Clan Click. E non mi tratti così al mercato dell'usato. Sono un passatempo, non sono una mascotte, sei pesante.